Pronto? eccoci qua, funziona, funziona. Ho Bene, bene, sono contenta. una do doppia registrazione, così almeno siamo sicuri che funziona, speriamo. Va bene, Qua, poi ok. stamattina sono già nel mio ufficio, così stavo immaginando quando faremo una videocamera, no? Sarà bello. Eh sì, presto faremo con la videocamera, così ci vediamo anche in faccia, no? Sarebbe bello, sì. Bene, bene. Ho visto che hai messo su Facebook, quindi oggi ci raccontiamo quello che abbiamo fatto il weekend. Sì, è stato un weekend lungo e, diciamo, particolare, perché praticamente è finito per me mercoledì e ricomincia oggi, quindi è un weekend, insomma, un po' lungo. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Cosa abbiamo fatto questo No, weekend? io sono curiosa perché te il 2 novembre hai scritto che la consapevolezza della morte ci porti più gioia nella vita. Maestri dal Tibet, no? E quindi vedo una libreria e poi dici, racconto di come i maestri del Tibet sono apparsi nella mia vita e mi hanno liberato dalle mie catene. Come ho Sì. incontrato il mio primo maestro. Quindi ero curiosa di sapere prima come hai organizzato tutto, cioè hai un posto fisso con la libreria, stai sempre, ogni quanto fai questi incontri, organizzare tutto è facile, difficile, Facile, sai, tante difficile. volte vorremmo fare tante cose, però poi diciamo no, è difficile, non lo facciamo, no? Quindi fare tutto, creare tutto questo evento, perché alla fine è un evento, vorrei che mi raccontassi un po', ecco, perché non mi hai raccontato questo. No, non te l'ho raccontato, infatti vedi, bella questa occasione, così te lo posso raccontare. No, Sì. è praticamente questo evento che ho creato in questa libreria, con cui sto collaborando ormai da parecchio tempo, era un evento sono storie che racconto delle mie avventure, chiamiamole spirituali della vita, no? E questo evento che si chiama Maestri dal Tibet, che poi tra l'altro si trova anche sul canale Livestream qui. L'avevo creato per parlare di come io ho incontrato i miei maestri spirituali, no? Che poi è stato un percorso, è stato, comunque continua a essere, però è stato un percorso anche abbastanza di sincronie, no? Di cose che sono accadute per caso, in modo strano, eccetera, eccetera, e una dopo l'altra si sono rivelate parte di un percorso fluido, no? Che mi hanno portato oggi a essere qui. La libreria praticamente è una libreria di una mia amica che è molto aperta a questi eventi, e con questa mia amica Marta siamo molto, diciamo, siamo molto connessi, se vogliamo usare il linguaggio spirituale, e quindi la cosa è nata spontaneamente, praticamente. Parlando, il mio desiderio di fare di raccontare queste storie, e la sua apertura e desiderio anche di ascoltarle, insomma, ha fatto in modo che già dopo 2 giorni avevamo creato il primo evento. Da quella volta sono passati 2 giorni. sì, in 2 giorni abbiamo creato, ma nemmeno subito l'abbiamo creato il primo evento. Proprio, no, mi sono detto, se aspettiamo che ci risentiamo e organizziamo, non lo faremo mai. Quindi buttiamo giù subito la bozza. Abbiamo buttato la bozza, lei poi ha mandato l'email per fare le locandine, e subito l'evento è stato creato lì. In 2 giorni era già pronto, insomma, ecco. Però Pensa te, invece io credevo che minimo un mese, cioè no, puoi diciamo creare che gli eventi, le cose in teoria, un no, dopo mesetto, 15 giorni. sì, la data non era per il giorno dopo, la data era per dopo almeno 15 giorni, esatto. Quindi c'è un minimo di 15 giorni per fare le locandine e tutto, però l'evento l'abbiamo creato quel giorno, e quel giorno abbiamo stabilito la data e tutto, insomma, ecco. Quindi diciamo che per quello che ci riguardava noi abbiamo fatto tutto subito, poi i tempi tecnici sono quelli, esatto. Quelli non si possono Poi io ho accelerare. ascoltato un po' del tuo racconto, no? E parlavi a un certo punto proprio come la morte di uno dei tuoi maestri, Sì, infatti stato un momento, sì. in questo evento particolare, che poi è il decimo, l'undicesimo di tutta la serie, sì, diciamo che è stato l'evento clou di tutto questo percorso spirituale, è stata la morte del mio maestro, che era Italo. Sì, è strano perché noi che vediamo la morte come una tragedia, anch'io, primis, quindi non mi pongo dal lato di colui che vede la morte come una cosa positiva. Io ho avuto tanti traumi di morte, come tanti, ma i miei per me sono importanti e non li ho mai vissuti bene, no? E per la prima volta, quando è morto il mio maestro, stranamente questa morte non è stata una perdita, ecco, quindi è stata proprio una cosa, non è stata una cosa che io mi sono dovuto concentrare per vedere il lato positivo, sai, tutte queste cose che sono utili, ma comunque soffri dentro, no? E Certo. invece no, non è stato proprio, cioè, ho cercato la sofferenza, ho cercato la tristezza, ho cercato di trovare il modo di vedere il brutto, non l'ho trovato proprio, cioè non c'è stato, perché ho provato sulla mia pelle che quando muore una persona veramente maestra per te, è come se ti lasciasse tutta l'eredità di tutto il suo essere. Se tu l'hai seguito, io l'ho seguita questo maestro, mi sono affidato, ho ascoltato le sue parole, ho imparato tutto quello che potevo imparare con lui, non avevo rimpianti, no? Soprattutto quello è importante, non avevo rimpianti, oddio, non gli ho detto questa cosa, non ho fatto questo, ho fatto tutto quello che potevo fare nel possibile. Quindi quando lui è morto mi ha lasciato tutta la sua eredità e non è successo altro che aumentare poi il suo insegnamento, perché nella sua morte ho imparato ancora un'ulteriore lezione, che è quella di, praticamente per me, quella di non affidarmi troppo al maestro, cioè fidarmi, perché comunque lui era la mia guida, ma non aspettare che lui fosse sempre davanti a me. Perché? Perché nel momento in cui lui non c'era, io avrei dovuto imparare a camminare da solo, e con la sua morte è stato un insegnamento abbastanza brusco, no? Certo. E quindi ho dovuto imparare ad andare da solo, anche se lui me l'aveva insegnato già da prima, quando si era ammalato. E quindi quando lui si è ammalato, io già ho capito la lezione. Quando lui è morto, la lezione già l'avevo imparata, no? È come quando vai all'estero che l'inglese già l'hai imparato prima, non aspetti di andare all'estero per imparare l'inglese, no? Quindi è come se la lezione già l'avessi imparata prima. Quando lui è morto, io ero pronto ad andare da solo, e da solo sono andato accompagnato dalla sua energia, perché poi comunque quando muore un maestro ti arrivano tante cose anche durante la sua morte e dopo, quindi capisci che la morte non è una fine, anzi, ho visto che la sua morte a me mi ha portato molto di più, cioè, ma mi ha arricchito, quindi non sono mai riuscito ad essere triste, se non quando penso a lui come persona in carne ed ossa, e allora mi manca, ecco, allora sono triste, ma è una tristezza, diciamo, piccola in confronto a tutta la gratitudine per quello che era, per quello che è stato, per quello che mi ha lasciato e per quello che sono oggi, grazie a lui. Quindi come faccio a essere triste? È come se, essendo triste, non riuscissi ad essere grato. Sono talmente grato che non riesco ad essere triste, ecco. Quindi questa è come la morte, grazie al mio maestro Italo, è cambiata ai miei occhi, no? E questo evento è stato fatto poi proprio pochi giorni prima del giorno dei morti, no? Che è il primo novembre? Sì, il primo novembre, che poi è festa, no? Che sembra anche lì, no? Il giorno dei morti, una cosa, no? Macabra o triste, il cimitero. Invece non è detto che debba essere triste, è solo forse un avvicinamento alla morte che noi consideriamo, boh, come una cosa brutta, e quindi non ci pensiamo mai, e non pensandoci mai, poi quando succede siamo nei guai, no? Certo. Io ci penso tutti i giorni alla Quindi, morte e questa cosa mi dà vitalità. Cioè, stamattina mi sono infatti. alzato, non c'avevo voglia di alzarmi perché mi sono alzato alle 5, lì per lì dici, vai, vorrei dormire, poi dici, ma se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, mi alzerei? E allora, boom! Quindi questo, in pochi minuti, ti ho spiegato più o meno tutto, insomma, ecco. Sì, infatti anch'io da qualche anno fa ho cambiato la mia percezione per quanto riguarda la morte, no? Sì. Però mi ha colpito quello che hai scritto, che la consapevolezza della morte ti porta più gioia nella vita. Sono parole per me molto forti, molto profonde, no? Quindi come la morte di un maestro può cambiarti, ecco. Per tutto quello che ci hai detto, invece la morte di un parente, di una persona che vogliamo bene, Secondo me è uguale, nel senso che nella stessa sì, se situazione. impariamo è un allenamento, credo, non credo che è una cosa che oggi la capisci e domani riesci a farla, no? A me sono dovute morire moltissimi maestri, nel senso lato, no? Moltissime persone care nella vita, e solo questa l'ho vissuta come ti ho raccontato, no? Quindi prima comunque ho vissuto traumi, perdite, quindi è un percorso, no? Ed è un percorso che alleni purtroppo solo affrontando la morte, quindi purtroppo l'opportunità per allenare il modo di vivere una morte bene lo puoi allenare solo quando muore qualcuno per davvero, no? Quindi E questo secondo te cosa bisognerebbe fare per acquisire questa consapevolezza? Perché tanta gente quando muore qualcuno è soffre e Perché è va in troppo tardi, depressione, sì, perché quando è morto. non riesce a superare quel dolore, quel trauma e se lo porta a vita per anni, no? Infatti io ero rimasta colpita quando era morto il tuo maestro e tu stavi tranquillo, sereno, anzi. Sembrava proprio Anzi, che gioivi. ho iniziato Di lì, una io. persona normale, un essere umano. Vabbè, tu sei normale, soltanto che sei un gradino in più per tanta illuminazione e consapevolezza che hai. Ma una persona comune così, Una di persona che non tutti i ha un maestro, giorni. che non ha, sì, che non segue un percorso spirituale più che normale, esatto. Sì. Io, Come potrebbe secondo te come ero io affrontare? finché non ho incontrato il mio maestro, fondamentalmente, no? Io prima facevo questa tecnica, tra virgolette, no? Nel senso che quando muore qualcuno, se non sei preparato, purtroppo è troppo tardi per prepararsi, no? Per quello essere consapevoli della morte prima aiuta poi quando c'è il momento, no? Io quello che faccio e quello che ho preso anche da vari corsi e varie altre persone che mi raccontavano come funzionava la morte, eccetera, ho iniziato a, per esempio, se ho iniziato a godermi di più la persona, ad apprezzarla di più, a criticarla di meno per le stupidaggini, o perlomeno criticarla di meno sul serio, ti critico, ma è un gioco, ecco. Ho cominciato a pensare proprio a questa cosa qui. Ma se questo problema che mi fa litigare con Paolina, per esempio, no? È un vero problema. Se Paolina morisse domani, questo problema sarebbe ancora valido? Siccome questo pensiero mi ha portato sempre poi a distruggere tutti i problemi, a risolverli praticamente in modo istantaneo, ho creato questo schema, no? E quindi anche con i miei genitori, tutti i difetti che vedevo in giro, no? Dico, ma questo difetto c'è, ok, ma se domani mia mamma non ci fosse più, cosa pagherei per averla con il doppio dei difetti di oggi? Allora ho iniziato ad apprezzare tutte le persone che mi stanno intorno per quello che sono con le cose che io vedevo difetto. E quindi ho iniziato semplicemente a apprezzare di più quello che avevo oggi. Così che poi quando lo perdo, quando lo perdevo, non avevo rimorsi, rimpianti. Fondamentalmente sono i rimpianti quelli che creano proprio più disagio nella morte, no? Quindi io so che a Paolina l'ho chiamata, gli ho detto che io voglio bene, abbiamo fatto tutti i progetti che abbiamo sempre sognato nel possibile, ce la siamo goduta, eccetera, eccetera. Quando Paolina muore, se muore prima di me, non ho il fardello del rimpianto che mi appesantisce già il trauma di per sé e quindi soffro meno in quel senso. Non so se mi spiego. Non. Bello, sì, certo, hai detto tre cose fondamentali. Critichi di meno, apprezzi di più e ti godi ogni momento che vivi con quella persona, no? Così di non avere rimpianti. Sì. Bellissimo, lo metterò in pratica anch'io. E coltivo soprattutto le persone che reputo importanti, perché allo stesso modo la morte mi fa scegliere di non frequentare alcune persone, no? Perché magari devo uscire a prendere un caffè con una persona e dico, ma se io morissi domani, ce le perderei un'ora con questa persona? Se la risposta è no, io quel caffè non lo prendo. Piuttosto vado a trovare un amico caro, capito? Quindi è una cosa che mi fa apprezzare chi devo apprezzare e mi fa eliminare ciò che non mi serve. E soprattutto poi se e quando la morte, no, se quando poi la morte poi bussa alla porta e quindi qualche persona cara, che poi la morte a me piace anche pensarla come una perdita di qualcosa di materiale, del lavoro, eccetera, eccetera, è uguale, è sempre una morte, no? Una perdita. Però quando bussa, se comunque soffri, perché soffro lo stesso, comunque, durante il periodo della morte cerco di ripercorrere i momenti belli con quella persona, no? Quindi, per esempio, ancora non avevo questa consapevolezza, quando è morta mia sorella, ero triste, ma lì ero ancora forzavo la gioia nel modo in cui, nel momento in cui ripensavo alle sue qualità. Quindi parlando anche con gli amici, raccontavamo delle sue qualità, raccontavamo degli aneddoti divertenti, raccontavamo di quella vacanza, raccontavamo di tutti i momenti passati insieme e quello ci dava gioia anche se con le lacrime agli occhi, capito? Quindi, diciamo, ci sono Infatti mi vari ricordo modi. quando era lei a dare forza a voi, no? Esatto, Gioia a poi. voi. Tante volte non capiamo com'è che quella persona che sta morendo riesce a darci più forze a noi e dovrebbe essere il contrario. Quindi. Perché la persona che sta morendo ha la possibilità di essere consapevole della morte più di noi, nel senso che ce l'ha in faccia, no? Noi siamo illusi che lei sta morendo e noi no. Fondamentalmente è una grandissima cazzata perché tutti stiamo morendo e fondamentalmente tutti moriremo e fondamentalmente non si sa mai quando, quindi non è che il malato terminale è garantito che morirà prima di noi. È una. Questo è un discorso che con mia sorella feci molto e mi cambiò anche la prospettiva, cioè il fatto che io pensavo che lei sarebbe per forza morta prima di me era un'illusione perché non è detto. Cioè, Certo. c'è sempre che uno non lo sa quando, cioè non c'è per forza un preavviso, no? E quindi, boh, non lo so, è esatto, è come se alla fine tutte queste morti oggi mi portano a vivere veramente nel modo in cui vivo, che reputo un modo pieno e ricco, e quindi, boh, sono confuso perché non so più se vederla come una cosa brutta o come una cosa bella, sta Vabbè, morte, l'importante eh? Rimango nel dubbio, ecco, mi piace più così. è che il bello, non importante, il bello è che lo Sì. prendi in modo positivo e come scrivi qui con gioia, no? Con Quindi gioia. vivi la tua vita al 100%, incontri le persone, apprezzi il bello di loro, anche se è soltanto per un minuto, Poi se per una piango, vita eh. intera, quindi è Piango, bello non soffro. avere rimpianti, no? No, volevo dire quando dici con gioia, non è che poi con gioia vuol dire che rido tutto il giorno, non soffro. Soffro ma con gioia. Piango ma con gioia. Esatto. Oggi sto male. Al massimo della possibilità. Certo, perché tutti quei sentimenti, tanta gente ha paura. Oddio, vado in depressione, oddio, sono triste, non voglio soffrire. Esatto. Invece, quello che io ho imparato è che proprio quei sentimenti ti Esatto. aiutano tantissimo, no? Sono parte di noi, cioè noi siamo tutto, noi siamo gioia, tristezza e tutto. E quando impariamo ad accettare questi sentimenti e lasciare andare, per me passa tutto. Perché prima li rifiutavo, non volevo, soffrire. Quando ho accolto la sofferenza, tutto è Esatto. cambiato. Sì, è bellissimo, è bellissimo. Io ci tenevo molto di parlare di questo questa mattina, proprio perché c'è stato questo weekend, e di sapere anche ogni quanto farai questi incontri e se parli appunto di temi specifici Sì, così. più o meno adesso diciamo che poi è una cosa che varia. All'inizio gli incontri li ho fatti una settimana, adesso li facciamo una al mese, no? Quindi più o meno una al mese, E anche dove se sta l'incontro? Dove lo fai? a Così Loreto, c'è qualche numero. Ancona, provincia di Ancona, Loreto, però sono anche sempre live online, quindi sono seguibili in tutto il mondo fondamentalmente. Grazie alla Ma richiesta come di lo trovano online? online Dove? su Livestream qui, scrivono Stefano Roganti, vedono il mio canale, vedono gli eventi che vengono nuovi, oppure sul sito www.stefanoroganti.com sì, su quel sito lì se tu ti iscrivi ti arrivano le email prima degli eventi, ti avviso, eccetera, eccetera. Quindi Bello, bello, così se qualcuno vuole ascoltare, seguirti, Oppure, almeno su, sa sì, oppure dove. se uno vuole vedere anche le registrazioni vecchie, va sempre su Livestream, su Livestream, oppure semplicemente su YouTube, sempre scrivendo Stefano Roganti, il nome dell'evento o semplicemente il nome e il cognome mio, poi vede il canale, sul canale ci sono vari video, ci sono vari video, ci sono spezzoni di eventi, ci sono cose che registro io così casualmente, ci sono parecchie robine, insomma, dopo uno si fa guidare da ciò che gli piace, dall'istinto, no? Certo, Quindi, quello sì. sì, poi alla fine. Quindi nella libreria fai anche incontri di inglese o no? O è No, più strano? bravo, hai fatto bene a chiedermelo perché stranamente anche lì, come dicevi tu prima, non lasciare andare, no? La libreria è nata per i corsi di inglese. Ho iniziato a fare gli eventi di inglese in libreria. Però sai quelle cose, è andata sempre molto bene, nel senso che mi ha aperto tante porte, però poi alla fine è andata morendo proprio quell'energia, non c'era più stimolo nemmeno da parte mia di fare eventi di inglese lì perché in effetti l'ambiente si presta di più per quest'altro tipo di eventi, no? Quindi in automatico è come se gli eventi dell'inglese sono serviti per far conoscere me la libreria, per farci diventare amici, dopodiché essere pronti a fare quello che invece veramente volevamo fare, no? Quindi anche Ho lì abbiamo capito. vissuto la morte degli eventi dell'inglese come subito sembrava una tragedia, nel senso che vabbè, non li facciamo più, no? Peccato, finito. Poi dopo un po' di tempo questo ha dato la possibilità invece di nascere a questa nuova cosa, quindi è stata come al solito una morte di una cosa finita, vecchia, ha portato alla nascita di una cosa decisamente migliore perché comunque nuova e comunque di un altro livello, no? Quindi Quindi si potrebbe dire che dopo la morte ci si aspetta sempre una nascita, una rinascita di qualcosa, più o meno così. io credo che sia proprio così, nel senso che ci credo e non ci credo, nel senso mi fido, però anche la tradizione con cui io studio, che è la tradizione tibetana, comunque parlano della rinascita e della morte come fosse che noi parliamo del giorno e della notte, cioè con la stessa tranquillità e serenità. Quindi come adesso guardo fuori e c'è la luce perché fino ad un'ora fa c'era la notte e stanotte ci risarà il buio, è una cosa ciclica, loro parlano della vita e della morte, quindi come non ti preoccupi della sera quando va via la luce, non ti preoccupi della fine quando muori. Quindi diciamo che io credo proprio di sì, ecco, ci sto arrivando, ma credo proprio di sì. Credo che ogni morte sia una rinascita fondamentalmente. E il mio maestro me l'ha provato, quindi l'ho toccato con mano, no? Infatti, tante volte in quello che leggo, nei seminari che vado, dicono di osservare di più la natura, perché la natura ci dice tutto. E se pensiamo proprio a questo fatto del giorno e la notte, Esatto. già lì abbiamo un esempio chiaro di tutto, no? Sì. Se osservassimo di più magari la natura, come crescono le piante, come muoiono e poi ricrescono, non hanno questo timore, questa paura di oddio, sto morendo, mi sto No, seccando, perché l'anno no? dopo rinascono, quindi non gliene frega niente. Esatto, è anche il giorno e la notte, prima c'è il buio e grazie al buio c'è il giorno e poi di nuovo il buio, è bellissimo, basta vedere un po' di più la natura, le piante Sì, sì, e sì. trovare anche lì un spunto, una consapevolezza, no? Beh, io diciamo che in questo percorso, non l'ho detto, ma esatto, c'è l'inclusione della natura, nel senso sto coltivando anche delle piante aromatiche, coltivo delle piante anche da balcone, no? E vado in natura e questo ti aiuta a vedere anche le tempistiche, no? Le piante sono lente, vanno con i tempi di loro e come dici tu, quando muoiono non sono tristi, ma nemmeno tu sei triste che muoiono. Non è che dici, oddio, è morta la pianta del basilico, come faccio? Sai che a novembre il basilico più o meno finisce e non ne fai un trama. Quindi è la consapevolezza che il basilico quando muore è perché deve morire e quando rinasce a maggio, sai che c'hai i semi di quello dell'anno scorso e quindi rinasce, questa consapevolezza con il basilico ti dà la serenità. Se questa consapevolezza riuscissimo a comprenderla nella nostra vita, sicuramente saremmo più sereni anche nella nostra morte. È più Certo, cioè difficile. capire il ciclo di vita, che non Esatto. c'è vita se non c'è la morte, No, è in poche compreso. parole. Ma poi perché noi pensiamo che se io muoio è finita, no? Però se io diventassi consapevole, questo è un percorso, non è una questione di conoscenza mentale, se io diventassi consapevole che come muoio, comunque, come fossi una pianta di basilico, poi l'anno dopo il mio seme rinasce, quindi io rinasco, anche se in forma diversa, non ci avrei tutte queste preoccupazioni che ho oggi, no? Di morire, quindi. Certo, questo per chi crede magari nella vita dopo la morte, per chi non Per crede chi non magari è un crede, pochino più focalizzarsi triste, però. sul positivo e niente rimpianti. L'abbiamo provato tutti, quando non hai rimpianti nessuno riesce ad essere più triste di quello che è giusto che sia. L'abbiamo provato tutti, quando ti sei goduto una cosa, quando hai fatto una cosa, hai fatto tutto quello che dovevi fare, fondamentalmente è molto più facile lasciarlo andare poi, no? Quindi basta provarlo, cioè non è che è una teoria. Provate, uno basta che prova e verifica, no? Certo, Una storia adesso che mi hai d'amore. raccontato delle piante mi è venuta un'idea, magari un giorno condividi con noi una Sì. giornata di Stefano Roganti, da quando ti Ah, alzi a sarebbe bello, sì. quando finisci la giornata, sarebbe bello, eh? Per vedere come. Ma volevo fare un seminario una volta così, no? Sarebbe stato bello che so, due o tre amici venissero dentro casa mia e osservassero soltanto tutto quello che faccio dalla mattina alla sera. Sarebbe anche per me uno stimolo nel fare meglio poi, comunque, no? Perché Certo. io faccio, ma a volte da solo mi perdo, come sono un essere umano come tutti, quindi. Oggi mi sono svegliata alle 5, grazie sempre a questo evento che abbiamo creato io e te. Perché? Sì, Perché ogni tanto anche cado, il mio ogni. compagno, ma per forza ti devi alzare, gli ho detto non per forza, mi fa piacere. No, ormai è un appuntamento che mi fa piacere, non vedo l'ora che squilla il telefono. Poi ormai me l'hai detto, E che fai? Mi rimandi? Cioè, se non mi puoi mandare più l'SMS mezz'ora prima, capito? È troppo presto, non me lo puoi dire. Quindi è un obbligo positivo, no? Secondo bello perché tante volte aspettiamo che sia la motivazione a darci quell'input per fare azioni. me. Invece, Invece no. io ho capito che se mi impegno a fare qualcosa, poi mi viene la motivazione, cioè io mi sono impegnata ad alzarmi alle Adesso. 6:30 a parlare con te, quindi è stato l'impegno che poi ha creato in me azione, perché poi ho Esatto. fatto la telefonata, e questa azione mi crea tanta motivazione ed entusiasmo dentro. Bingo, Quindi tante volte aspettiamo al contrario, prima essere motivati per poi fare azione, per poi creare l'impegno e non accade nulla. Se fai il contrario accade tutto, Esatto, sì. esatto. Fare Bello, per bello, motivare, no? Beh, esatto. Io stamattina non ero motivato, mi sono alzato, adesso sono super motivato, capisci? Esatto. Hai beccato proprio hai beccato proprio lo schema giusto, secondo me, esatto. Va bene, sono le 7:01, credo che siamo alla fine. E quindi che dire, se c'è altro da aggiungere, se no salutiamo tutti. No, soltanto se volete ascoltare le nostre, i nostri racconti su YouTube, Stefano Roganti, Mastermind racconta storie. Esatto, Siamo oppure all'episodio 6. questo è l'episodio 5. E 5. sì, il prossimo sempre venerdì alle 6:30 del mattino. E la registrazione sì, sia su YouTube che su live stream. Anche su paolinaalexandra.it troverete Alexandra.it. presto i link per il podcast su Facebook, insomma, basta che ci ascoltate e se ci avete domande o volete fare commenti, per favore, contattateci, contattateci, contattateci. Va bene? Sì, ok, va bene, buona giornata Ciao, ci Stefano. vediamo venerdì alle 6:30. Bye Sì, bye bye, bye. ciao. Bye bye, ciao ciao.